Quando la notte entrerà nella casa del corpo, eppure tu diventerai terape ceci. Vai sempre dritto che non ti puoi sbagliare. Giungerai alle case ben costruite di Ade. V'è sulla destra una fonte. Accanto ad essa si erge un bianco cipresso. Lì discendono le anime dei morti per aver refrigerio. A questa fonte non accostarti neppure. Prosegui dritto fino al bivio. Poi prendi a sinistra. Alla rotatoria prendi l'ultima uscita. Prosegui dritto per 60.000 anni luce. All'incrocio gira a destra. Poco più avanti troverai la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosin. Vi stanno innanzi i custodi. Ed essi ti chiederanno, in sicuro discernimento, che mai cerchi attraverso la tenebra dell'Ade caliginoso. Prima di tutto, di loro. Senza navigatore non vi avrei mai trovato. Son figlio della greve e del cielo stellato. Di sete son arso e vengo meno. Ma datemi presto da bere la fredda acqua che viene dal lago di Mnemosin. Ed essi son misericordiosi per volere del sovrano degli inferi. E ti daranno da bere l'acqua del lago di Mnemosin. È gratis, ma non esagerare, che non è buona creanza. E tu quando avrai bevuto il giusto percorrerai la sacra via su cui procedono gloriosi anche gli altri iniziati e posseduti da Dioniso, e parecchi poeti italiani contemporanei, poveretti. Quando ti accodi a loro tieniti a distanza, che non gli funzionano gli stop.